Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ovviamente molti non sapranno che in questo spazio si svilupperà la trasmissione 451 Intersezioni, uno spostamento di palinsesto, un cambiamento anche abbastanza importante di palinsesto che ci ha portato in questo orario. Per coloro che si fossero messi in ascolto per la prima volta su queste frequenze, su questa voce, 451 Intersezioni fa parte, diciamo, del network radiofonico di 451, che a Radio Città Fujiko si sviluppava almeno fino all'anno scorso in due giornate, una quella del mercoledì, cioè ieri notte, dalle 23 al 01 di notte, condotta dal collega nonché amico, soprattutto compagno, Max Macchia, che ovviamente saluto da questi microfoni, e lo spazio 451 Intersezioni, che aveva il suo contenitore radiofonico il lunedì dalle 20 alle 21. E 451 Intersezioni già dallo scorso anno nasceva come trasmissione di unione, anche di memoria storica, rispetto al conduttore precedente, Pier Antonio Penzinga, nostro amico e compagno con cui collaboravamo anche dal punto di vista musicale, radiofonico e anche soprattutto politicamente, che purtroppo è venuto a mancare ormai più di un anno fa, e abbiamo proprio pensato insieme a Radio Città Fujiko di sviluppare ancora questo percorso musicale, sonoro, che ci vedeva anche molto vicino con Pier Antonio Penzinga, proprio continuando il suo spazio che si chiamava Intersezione, che andava in onda su Radio Città Fujiko già da diversi anni, sempre lunedì dalle 20 alle 21. Questo progetto sperimentale praticamente si è sviluppato nel corso dell'annata scorsa, 2014-2015, ma poi purtroppo per decisioni radiofoniche nella costruzione del palinsesto questo spazio è stato, diciamo, modificato, sottratto, potremmo dire, a 451 Intersezioni, e un po' ce ne dispiace, lo diciamo senza polemiche particolari, ma sicuramente lo vogliamo rimarcare. Avremmo voluto sicuramente, come 451, soprattutto per la memoria di Pier Antonio, continuare in quella fascia oraria per mantenere quel percorso storico, ma è andata così. Comunque abbiamo deciso insieme, anche con la radio stessa, di continuare, anche per appunto ricordare, non in un'ottica ovviamente diciamo luttuosa o di memoria fine a se stessa, ma proprio come discorso di un filo rosso che ci porta avanti, ci coniuga e ci coniugava con Pier Antonio, portarla avanti ancora, anche se sposteremo appunto la trasmissione. In particolar modo saremo in onda sempre in questo orario, ogni giovedì notte dalle 24 all'1, 1 e un quarto, 1 e mezza circa, dipenderà anche dal tipo di trasmissione, tendenzialmente sarà un'ora di trasmissione, e continueremo dunque quel percorso che abbiamo interrotto, diciamo, nella stagione del 2004-2015 rispetto alla fascia oraria e alla giornata, e la continueremo ogni giovedì, ripeto ancora, dalle 24 all'1 circa di notte. Ricordo anche e soprattutto il nostro blog di riferimento 451frammentisonori.blogs.org, dove troverete tutte le puntate sia di 451 Frammenti Sonori e sia di 451 Intersezione. E dunque, ricordando il nostro amico compagno Pier Antonio Pezzinga, che ha portato avanti per anno trasmissioni splendide, organizzando concerti, cercando di promozionare moltissimi musicisti sperimentali dell'area improvvisativa, jazzistica e in generale appunto dell'avanguardia e della sperimentazione, sia in Italia che nell'estero. Ricordiamo soprattutto il splendido concerto di Arricò, riformatosi proprio e sviluppatosi questo concerto qualche mese fa a Forlì, organizzato anche dall'Area Sismica, in ricordo proprio di Pier Antonio Pezzinga, che amava fortemente questa formazione storica di un jazz rock piuttosto obliquo degli anni 70, tant'è che abbiamo deciso di continuare a utilizzare la sigla iniziale, proprio tratta dal grande disco di Arricò. E appunto musicista, diciamo in maniera particolare, quello che possiamo connotare di Pier Antonio, perché da un certo punto di vista, pur non suonando nessuno strumento, era talmente immerso nella musica e si faceva talmente attraversare, cercando di coniugare, collegare organizzatori, eventi, concerti, radio, dischi, che lo possiamo veramente definire anche come musicista, nonché che conduttore radiofonico e militante politico, vicinissimo ovviamente alla nostra area politica. E per aprire questa puntata, anche perché sennò il tempo è estremamente ridotto, partiamo col titolo a trasmissione, che ovviamente dedicheremo e dedicherò in particolare a Pier Antonio Pezzinga, Interstellar Jazz. Questo è il titolo di questa serata, un modo anche forse per fuggire dalle miserie di questi anni, di questa epoca piuttosto squallida e triste che attraversa Bologna e l'Italia, ma direi tutto il mondo occidentale e non solo. Interstellar Jazz è anche una sorta di collegamento, un grande film che ha attraversato in questi ultimi mesi un po' la scena, la fantascienza, piuttosto anche recensito in maniera molto buona anche da quelli che amano in maniera approfondita la fantascienza. Parliamo di Interstellar, che è questo film uscito nel 2014, diretto da Christopher Nolan, uno dei migliori lavori degli ultimi anni nell'ambito della fantascienza. In questo modo anche il film giocava un po' sulla dimensione degli spazi temporali, buchi neri, spostamenti appunto tempo e spazio utilizzati dal regista, che si basa sul romanzo oltretutto realizzato da uno scienziato, dunque una persona che comunque attraversa queste dinamiche temporali e spaziali in maniera anche piuttosto precisa dal punto di vista scientifico. Un film che si collega molto bene all'idea di stasera, che è legata fondamentalmente a un'idea connessa allo space jazz, particolarmente collegata alle sperimentazioni, alle musiche del grande Sarra, ma non solo, anche autori importanti nella scena jazzistica degli anni 60 e 70, che hanno sviluppato un'idea cosmica del jazz, e anche attraverso delle atmosfere e degli sviluppi musicali piuttosto suggestivi. E partiamo subito, anche perché appunto mi sto accorgendo che sto parlando troppo, ma d'altronde è la puntata iniziale d'apertura, bisognava fare le giuste presentazioni. Partiamo con un grande musicista, nonché trombettista, Donald Byrd, da un disco che è uscito postumo di materiali inediti del 1969-70, uscito in realtà però nel 95. Il disco è Coffee, e ci andiamo a sentire proprio il brano che dà il nome all'album, realizzata la registrazione nel 1969. Viaggiamo dunque in questa astronave Interstellar Jazz. Buon ascolto da 451 Intersezioni e in particolar modo dal conduttore di stasera, Elisio Scarpa. We'll be right back. Thank you. Thank you. Siamo rientrati in diretta a 451 intersezioni su Radio Città Fujiko e abbiamo appena ascoltato un grande. Stasera avremo dei monumenti della sperimentazione jazz degli anni 60-70. Abbiamo ascoltato Miles Davis dallo splendido doppio album Big Fun, che recupera vari materiali di registrazione delle session di In the Silent Way e On the Corner, che sono state praticamente rimesse insieme in questo doppio disco uscito nel 74. Splendido lavoro, sentiamo ancora in sottofondo le atmosfere sognanti e quasi spaziali, quasi in un universo spaziale, una narrazione sonora di un viaggio interstellare. D'altronde, dopo che avevo parlato talmente tanto in apertura, dovevo lasciar parlare la musica attraverso questo mix tra il grande Donald Byrd dall'album Coffee e Miles Davis da Big Fun, e subito ci immergiamo dentro un film fantascientifico, un viaggio astrale spaziale attraverso uno dei maestri dello space jazz. Diciamo che molti lo considerano il vero e proprio fondatore di un certo jazz cosmico e spaziale, anche se lui nasce e si sviluppa come sperimentatore nell'ambito del free jazz, Sun Ra. Parliamo del grandissimo Sun Ra, ormai scomparso da 22 anni, la morte risale al 1993, ma ha costruito dei progetti e degli album assolutamente splendidi e avanguardisti per l'epoca, ancora estremamente attuali anche nel 2015. E chiaramente io qua voglio fare proprio un collegamento alla trasmissione, oltretutto splendida trasmissione di Max Macchia ieri a 451 frammenti sonori, musiche per film mai girati. Ecco, io ho giocato un po' in maniera antitetica, in questo caso ho fatto un chiaro riferimento a un film veramente girato e prodotto, anche con un investimento non da poco, Interstellar. Da lì nasce l'idea di Interstellar Jazz di stasera, con questi mostri sacri del jazz anni 60-70 che cercavano di immaginare attraverso i suoni, attraverso le composizioni, un'idea di un jazz cosmico, spaziale, mondi alternativi, nuovi mondi, nuove dimensioni spazio-temporali che cercavano di appunto sonorizzare attraverso questi viaggi sonori che in gran parte sono veramente riuscitissimi, oltretutto anche con queste atmosfere molto psichedeliche e notturne che si adattano anche molto bene all'orario di stasera. Da Big Fun e Miles Davis ci spostiamo appunto a Sun Ra e andiamo a trovare da questo grande autore, che oltretutto ha realizzato una marea di album e di progetti musicali, l'album Cosmos del 1976, chiaro riferimento anche qua alla dimensione cosmica e spaziale. La copertina oltretutto è veramente bellissima e abbiamo selezionato due tracce collegate, proprio Interstellar Low Ways, e anche qua un chiaro riferimento alla trasmissione, al titolo di stasera, e Neo Project 2. Ce l'andiamo ad ascoltare, ci rituffiamo dentro questo viaggio astrale attraverso un'astronave interstellare, forse, anzi, sicuramente meglio della schifezza politica e sociale che ci viviamo qua a Bologna, soprattutto in questi ultimi giorni con quel bel circo costruito da Merola, Ronchi, e sulla questione, ma non solo, dello sgombero di Atlantide, ma anche di tutto quello che sta succedendo in città, perché poi di sgombere di case occupate, di spazi, sono all'ordine del giorno. Dunque una dimensione veramente allucinogena e abbastanza inquietante. Dunque per adesso ci tuffiamo qui, ma poi ovviamente dobbiamo tenere gli occhi ben aperti e le orecchie ben attente a quello che sta succedendo. Buon ascolto intanto con Cosmos San Ra. Thank you. E siamo rientrati in diretta con questo doppio brano dall'album di Sarà Cosmos 1976, e dalle atmosfere cosmiche di Sarà ci addentriamo dentro un universo variegato, variegatissimo. D'altronde questo autore, questo musicista, compositore ha attraversato varie ere, non soltanto storiche ma anche ere musicali collegate. Parliamo del grande Herbie Hancock, cresciuto attraverso anche le collaborazioni del Davis tra la fine degli anni 60-70, attraversando anche in realtà parte di jazz rock e parte anche di territori legati al free jazz, per arrivare in questo periodo storico che affronteremo adesso in una nuova era sonora che iniziava proprio da questo album che si intitolava Mandishi, uscito nel 1971. Da questo album inizia, diciamo, il percorso legato al jazz funk, con vari collegamenti anche al jazz rock, ma soprattutto a questa dimensione sempre più legata al funky, mischiato ovviamente al linguaggio jazzistico che gli era proprio, dentro anche universi più legati alla musica cosmica, allo space jazz, di derivazione più legata a Davis ma anche allo stesso Sarà. Herbie Hancock, in questo album del 71 uscito per la Warner Bros, inizia proprio a sperimentare quelle atmosfere che poi riusciranno a svilupparsi in maniera definita proprio negli album successivi, cioè Crossings, e poi attraverso anche le collaborazioni con l'altro progetto che lo stesso Hancock ha realizzato insieme a ovviamente la formazione storica che ha portato avanti insieme a altri musicisti, e in particolare appunto agli album successivi del 74 e 75, cioè Trust, ma anche album come Ed Hunters, appunto la formazione che poi ha costruito insieme ad altri quattro musicisti e autori, Ed Hunters appunto, che poi si è sviluppato come percorso sonoro e come progetto negli anni 70 fino alla fine in realtà degli anni 70. Ci andiamo ad ascoltare da Mandishi del 71, lo ricordo ancora, rimanendo dentro questa astronave interstellare molto black, molto nera, chiaramente un brano che è il secondo brano del disco, composto da ben tre brani molto molto lunghi, e ascolteremo appunto questo brano di mezzo che dà l'idea delle atmosfere suggestive che Hancock incomincerà a sviluppare proprio da questo album, con chiari anche riferimenti, atmosfere quasi filmiche appunto che attraversarono la Blaxploitation, ma non solo, moltissime musiche legate al periodo anni 70. Dunque caliamoci dentro un altro grande, un altro monumento degli anni 70, Herbie Hancock. Thank you. Thank you.